Buonasera e benvenuti di nuovo a questa puntata nuova di Might FM, nuovissima puntata con un nuovissimo disco. No, in effetti è uscito da più di un mese, ma è un disco assolutamente primaverile, super colorato, e ce lo porta Santi Gold, ovvero Santi White, al suo terzo album uno ogni quattro anni. E come ho letto, è come le elezioni presidenziali in America, è come le Olimpiadi, è come l'anno bisestile, e infatti è accaduto nell'anno bisestile. Torna questo nuovo lavoro di Santi Gold che si chiama 99 Cents, tutto un po' una critica sociale, comunque abbastanza leggera ed allegra su come la nostra vita sia tutta, qualsiasi cosa sia acquistabile e vendibile, e la nostra anche persona e personalità sia un brand che noi in continuazione promuoviamo anche grazie all'invasione dei social media. Ma partiamo con la prima canzone che apre il disco, come sempre, è una canzone che non riesco a togliermi dalla testa, e si chiama Can't Get Enough of Myself. Guardate il video, fate il video interattivo, è divertentissimo, ci sono un sacco di personaggi famosi che appaiono e prestano la loro faccia. Insomma, la genesi di questo album è che dopo aver fatto Un Bambino e aver scritto anche, insomma, i due pezzi un po' più cupi dell'album che ascolteremo in parte successivamente, insomma, voleva che fosse un disco divertente. Anche questa satira sociale è molto molto allegra e frizzante. In questo video infatti si vede che come la vanità, la vanagloria permi le nostre vite, e lei appunto è la prima che si trasforma in un prodotto veramente a buon mercato. Infatti c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo per Santi Gold, 99 centesimi di questo disco, dove appunto lei si promuove, si vende in tutti i modi dicendo: se io non fossi me sono sicura che vorrei esserlo, dalle selfie degli altri che vedo in giro vedo che io sono la migliore, la mia essenza è così bella e buona che vorrei imbottigliarla e venderla, sono così appetitosa, mettimi in un buffet perché non ne ho mai abbastanza di me stessa. Suona veramente primaverile, permeato dalle steel drums, ai flauti, questo suono così caraibico, un po' reggae, bello rilassato, polleggiato. È costruito con l'aiuto di un bravissimo produttore, creatore di grandi successi come lo scandinavo Patrick Berger, solo un titolo, Dancing on My Own di Robin. Carriera di Santi White, che ha acquisito il soprannome di Santi Gold negli anni 90, soprannome dato da un amico, da un'amica, inizia prima sempre nel campo della musica come, diciamo, talent scout nella compagnia discografica. colosso della discografia americana, la Epic Records, per la quale appunto ha lavorato e che però ha abbandonato, forse per problemi di conflitto di interessi, nel 2001 per fare l'executive producer dell'album di debutto di una cantante, giovane cantante americana dal nome Res. L'album si chiamava How I Do, è del 2001 e il pezzo che ci ascoltiamo adesso è uno dei singoli dei Say Vision. Insomma, poi quelli che hanno fatto New York con Alicia Keys e non mi ricordo chi devono averla sentita bene questa canzone. Il ritornello inizia un po' come Lisa Stansfield, Been Around the World, ai ai ai, e poi prosegue e ricorda moltissimo New York oppure Cuneo, decidete voi. Si trattava di Charisse Renee Ballard, nome d'arte Res, anche lei di Philadelphia in Pennsylvania, come Santi Gold, non l'abbiamo detto, nata il 25 settembre del 76, cioè quindi nata nel bicentenario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, nella città in cui è successo, cioè la città detta dell'amore fraterno, ovvero Philly, quindi tra poco sarà una splendidissima quarantenne, ma dopo aver fatto questa insomma avventura nel campo della produzione musicale, cosa che lei comunque continua a fare perché si coproduce e ha dei production credits e writing credits per tantissimi altri musicisti e pezzi, compresa anche Lily Allen o Ashley Simpson, mette su una band di new wave punk ska rock, sempre con i suoi compari di Philadelphia. Il gruppo si chiamava Stiff e ci ascoltiamo Anger Enough, vedete che è un tema ricorrente nella vita di Santi Gold, tratta dal loro album del 2005 Burned Again, che era stato preceduto da un EP nel 2003 che si chiamava Sex Cells. Per chi non sapesse di questo progetto musicale precedente di Santi Gold, comunque appunto non stupisce, perché lei ha saputo sempre mischiare con molto successo, e questo terzo album è ancora una conferma, suoni apparentemente molto lontani, il dub, il reggae con tinti hip hop, con la new wave e il punk. Finisce anche questo pezzo degli Stiff, il quartetto qui era la cantante con Mash Leck, Chris Char e Chuck Trees, ma noi invece stiamo parlando di 99 Cents, il nuovo album di Santi Gold, il cui secondo pezzo è questa Big Boss Big Time Business, che non a caso appunto va a coprire quel settore di world music, di bhangra, di ragaton, che spesso l'hanno fatta associare a Mia Yeh. fatto di essere così versatile fa sì che per ogni disco, per ogni pezzo, Santi ami circondarsi di molti produttori. Ci sono quelli fidati con cui collabora tanto tempo come John Hill, o ci sono nuovi entry come il già suscitato Patrick Berger, e anche con questo caso uno dei due pezzi che vede la collaborazione di Rostam Bad Bangli, meglio conosciuto come un quarto dei Vampire Weekend, nonché compositore fondamentale, direi, che ha lasciato la band a fine gennaio. Non ci sono stati brutti contraccolpi, anche gli altri membri della band, il cantante Ezra Koenig e il bassista Scott Baio, gli hanno augurato pubblicamente grande fortuna, dicendo insomma: noi per fare dei pezzi insieme non dobbiamo necessariamente essere nella stessa band. E Rostam infatti sta producendo e pubblicando dei singoli sparsi qua e là, quindi ci immaginiamo che entro il 2016 arrivi un disco, e questo pezzo, Big Boss Big Time Business, è uno dei due pezzi che ha fatto insieme a Santi Gold per questo 99 Cents. Come dicevamo dall'inizio, il paragone con M.I.A. Mia è stato inevitabile, anche perché proprio all'inizio delle loro rispettive carriere, insomma, hanno fatto delle collaborazioni importanti con altro DJ sempre in Philadelphia, ovvero Diplo, ma ne parleremo dopo, perché adesso, tra tanti pezzi che avrebbero potuto essere più consoni al suono delle canzoni di Santi Gold, insomma quelle un po' più mosse, quelle più pop, abbiamo scelto quello più meaningful, quello più pregno di significato, e anche un po' uno degli ultimi che ha diffuso nel novembre scorso un commento molto molto efficace sulla tragedia dei profughi e dei rifugiati, Borders. Se non avete visto il video, andatelo a vedere. A parte la polemica stupida del Paris Saint-Germain, che l'ha intimato di cambiare il video perché lei porta una maglietta dove c'è scritto Fly Pirates e neanche Fly Emirates, che è lo sponsor e la maglietta del Paris Saint-Germain. Comunque, Borders. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, some Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, some Western. Ovvero Mia, ovvero Maya Arul Pragasam, anglo-indiana, pakistana, Ceylon, Tamil, non ricordo bene, ma è sempre stata una cantante molto molto provocatoria, molto politicizzata. Anche il suo acronimo MIA sarebbe Missing in Action. Sono sempre accusata di difendere il terrorismo separatista delle tigri Tamil. Comunque questa canzone Borders a me piace molto, dà proprio una drop in gola, e se si vede il video è veramente veramente bello, è veramente importante. E dicevo, Santi Gold e MIA sono state sempre associate perché appunto generazionalmente stessa età, mia è del 75 e Santi del 76, e comunque si sono sempre poste a cavallo tra il pop e anche molti elementi di musica etnica, musica indiana, musica africana, anche Santi Gold spesso, musica giamaicana, caraibica, e tutti questi mix sono stati espressi magistralmente nell'album di debutto, preceduto da un EP con 6 pezzi, versione originale e 2 remix, 2 pezzi Creator e LES Artist, uscito nel 2007 dal titolo I Believe in Santo Gold, perché ai tempi si chiamava Santo Gold, era questo il suo vero soprannome che poi ha dovuto cambiare, ma ne parleremo in seguito. E i 2 pezzi che conteneva erano Creator appunto e LES Artist, un gioco di parole tra les artistes alla francese e LES come Lower East Side. Proprio con questo pezzo LES Artist che la conoscemmo un po' tutti noi qui nel 2008, e fu veramente una bella bella sorpresa appunto per questa commissione di suoni che a volte ricordano un po' Elastica, ricordano un po' Morris, gli Smiths, i Cars, ma anche appunto questa commissione con suoni magari a noi poco familiari ai tempi, ma molto molto divertenti. La sua formula è proprio riuscire a far funzionare tutto. Come ho letto in una delle sue interviste, dice: tanto i produttori con cui lavoro, che vengono da aree musicali diverse, sanno che praticamente qualsiasi suono può funzionare in un mio disco, basta che facciamo le cose a modino. Questi 2 pezzi con cui ha esordito al proprio nome Santo Gold, ricordiamo, mercato discografico, poi furono contenuti nel vero e proprio album d'esordio omonimo del 2008, ma noi stiamo parlando del terzo album, dopo 4 anni dal secondo, 8, 12, 16, e uno dei pezzi un po' più lodati di questa bellissima, godibile raccolta di pezzi è questo Banshee, fatto in collaborazione con una creatrice di hit superstar, come ho scritto nella presentazione, ovvero Katie Dennis, che ha scritto pezzi come Can't Get Out of My Head e Toxic, tra gli altri, chissà cos'altro, e ha scritto questo pezzo insieme a Santi Gold, si chiama Banshee. Pezzi di, almeno il primo disco, anche in seguito, di Santo Gold all'inizio erano incentrate, a partire proprio da Creator e Alias Artist, sulla creazione, sull'essere un artista, sull'autenticità e sull'integrità dell'essere artisti. E con questo album c'è questa apparente contraddizione che però lei cavalca proprio, la porta alle estreme conseguenze di criticare un mondo in cui tutto diventa prodotto, tutto acquistabile o vendibile, dove ogni persona, personaggio è un brand che si promuove in ogni modo, e anche appunto qualsiasi cosa, nostra apparizione nel mondo viene mediata dai social, e abbiamo tutti i mezzi per renderci più appetibili, per avere like, per venderci in qualche modo, e lei stessa si trasforma in un prodotto. E infatti ogni pezzo, perlomeno adesso i primi quattro pezzi, sul suo Tumblr, Santi Gold, è molto divertente il fatto che a ogni canzone sia associato un prodotto. Nel primo caso si trattava di una stampante 3D, quando le sei selfie non ti bastano più, tu lo fai, fai un salto di qualità e fai questa stampa della tua faccia 3D con cui puoi fare le tazze, puoi fare i dispenser di gomme, pez head, puoi fare dei busti tridimensionali, e questo aumenta moltissimo la tua autostima, come anche lo specchio, il Banshee Mirror, che viene associato a questo pezzo, e tutto è vendibile, è acquistabile a prezzi assolutamente concorrenziali. Ma siamo arrivati alle prime collaborazioni, ne ha fatte veramente tantissime, tra guest, featuring, writing credits, apparizioni, eccetera eccetera. Santo Gold è diventata assolutamente un po' prezzemolino nei tempi successivi all'uscita del primo disco. Per esempio, con questo pezzo che stiamo sentendo già in sottofondo, si trattava di un pezzo anche qui promozionale per la Converse, fatto insieme a Nerd, che era il duo di producer di cui faceva parte Pharrell, insieme a Julian Casablancas e a Santo Gold, e si chiama My Drive Thru. You're haunted by the demons that'll never let you rest. Not shy in front of crowds, but shy in front of just one guest. Not dumb enough to win at the game, but not smart enough to dumb it down and take it away. It's black and white, like space at night. If you wanna be like us, you better work every night. Young, but your game is prepubescent. So watch my apparizione in questo pezzo, Brooklyn We Go Hard, che prende appunto le mosse da questo refrain che canta all'inizio di Show It, pezzo contenuto nell'album di Soli Santo Gold. Jay-Z lo prende e lo trasforma in un suo pezzo, appunto Brooklyn We Go Hard. C'è sempre questo forte senso di appartenenza, lei è di Filadelfia, ma evidentemente poi ha vissuto spesso e vive ancora a Brooklyn. E chi è di Brooklyn? Noi abbiamo parlato tantissimo di come sia stata proprio la culla di una scena musicale ricchissima all'inizio di questo secolo, questo millennio. C'è sempre appunto una rivendicazione dell'essere di Brooklyn, tant'è vero che poi, adesso facciamo un salto temporale un po' in avanti ma poi torniamo indietro, nella mixtape fatta insieme a Diplo, che come aveva fatto con MIA, ha fatto questa raccolta di pezzi, di cover, di pezzi dell'album e altre cose. Subito dopo c'è anche questa rilettura di Guns of Brixton, The Clash, che per Santi Gold diventa Guns of Brooklyn. Giusto per confermare l'influenza del punk e post-punk, The Clash, l'altro primo gruppo bianco che incorporò nella propria musica dei suoni della Londra multietnica, appunto di Brixton, del reggae, il primo rap bianco anche è quello che hanno fatto i Clash in Sandinista. The Magnificent Seven, ecco, non mi veniva. Come dicevamo, questo pezzo è contenuto in Top Ranking Diplo Dub Mixtape, Santi Gold Mixtape, non ho capito bene quale sia il titolo ufficiale. Ma già in passato comunque aveva partecipato come guest fin dal 2002 in pezzi del rapper GZA, Ezekiah, Mark Ronson nel 2007, in un pezzo di Steve Aoki nel 2008 e da lì poi tantissime altre collaborazioni anche come produttrice e anche come autrice, come dicevamo. Per Ress nel 2001, per Lily Allen nel 2006, per Spunk Rock, Ashley Simpson e addirittura nel 2010 ha scritto un pezzo, Running Out, per i Sister Sisters. E uno sente l'inizio di questo pezzo, cosa dice, cosa pensa, se li conosce. Vampire Weekend, infatti questo è il secondo bellissimo pezzo, Chasing Shadow, scritto insieme a Rostam Bangley. E che è anche questa una riflessione un po' amara sull'essere una personalità di successo, ma poi in realtà di vivere una vita vuota, quasi schiava al servizio del pubblico, senza il quale insomma tu rimarresti sullo scaffale. E anche questo prodotto, anche questo pezzo accompagnato da un prodotto che è una bellissima crema per il viso con maschera, che sembra un po' una maschera da... come si chiamava il serial killer di Texas Chainsaw Massacre? La maschera da hockey. Per usare questa crema che nasconde le occhiaie e le ombre, perché questo pezzo si chiama Chasing Shadow. Il video anche molto bello. Racconta la solitudine di questa personalità di successo che però passa feste di Natale da sola. Santi dice: sì, io mi contorno di produttori molto diversi, ma loro sanno che io, insomma, posso far tutto, ho tanti gusti diversi, quindi a lui ho detto: vorrei fare una roba old school reggae. E il risultato è una classica canzone Vampire Weekend, che va benissimo. Finisce la bellissima Chasing Shadows. È un pezzo altrettanto intenso e malinconico. È l'ultimo singolo che dicevamo. Rostam Badmangli sta diffondendo il suo nome, ma già prima di lasciare Vampire Weekend. Questo è Gravity Don't Pull Me, video con due ballerini molto carini. Sa, lui ha fatto coming out già da diversi anni, e infatti questa canzone riporta un pronome maschile di lui che ha spezzato il cuore ad un ragazzo, e questa è una canzone di grande pentimento, molto bella, si chiama Gravity Don't Pull Me. And it broke my heart. And the worst things I ever did was to the same boy. I couldn't help it. I mess things up, and it broke my heart. Yeah, the worst way I ever felt was from the same boy that I still miss, 'cause I messed it up. Volevo aggiungere prima riguardo a Chasing Shadow che ovviamente la musica, per chi conosce Vampire Weekend, sembra una canzone di Vampire Weekend con Santi Gold che ci canta sopra, ma il valore aggiunto è il phrasing, il flow di Santi Gold. È bellissimo seguire i suoi testi, anche perché appunto un suo lavoro passato e tuttora era proprio di scrivere testi per altri. Messed it up, and it broke my heart. And the worst things I ever did was to this same boy. I couldn't help it. I messed things up, and I broke his heart. I to be gone. But some days I still let you back in. I bite my lip and I hold my tongue and I wait for the pain to be gone. But someday, I still let it back in. But the worst way I ever felt was from the same boy that I still miss. 'Cause I messed it up and it broke my heart. E finisce Gravity Don't Pull Me di Rostam, ma parlavamo dell'album d'esordio in quanto Santo Gold non c'era quasi un pezzo da buttare via in quell'album, dove c'è lei, una foto bianca e nero, quasi seduta, sembra quasi ubriaca, che vomita del glitter dorato, foto bianca e nero, glitter dorato, sempre molto molto attenta all'immagine, se cercate Google Immagine Santo Gold non vedrete mai una foto uguale a un'altra. Hairstyle, accessori nei video, nelle performance live, super super geniale e creativa. Ma appunto da quell'album tutti pezzi belli, noi adesso ne abbiamo messi insieme, noi, una tripletta, You'll Find A Way, Say Haha e I'm A Lady. Si può apprezzare insieme agli altri due pezzi già sentiti la varietà dei suoni. Di Where Is My Mind, ma poi ha un qualcosa di Smith e di Morrissey, come un altro pezzo che ascolteremo dopo, versione un po' diversa dal solito. E questa è I'm A Lady. The Hands of the Rock's Cradle di Smith è quella di Trevor Andrew, ovvero in arte Trouble Andrew, ne parleremo. ancora più tardi e sfuma così per motivi di tempo. I'm a Lady, abbiamo cercato di cacciarci però è possibile, abbiamo dovuto rinunciare alla collaborazione di Santi con Spank Rock nel 2012, al pezzo di Dera Dorian perché ha prestato la voce, back in vocals per Chasing Shadows per esempio, A Beautiful Woman che ci piaceva molto, ma invece adesso siamo passati a un'altra collaborazione, un pezzo che dal 2009 e ho sempre sempre molto amato e continuo ancora a metterlo nei miei DJ set, è super esplosivo e gradevole, è una delle collaborazioni del 2009, Gifted con Kanye West, Santi Gold e Lick Lee, e sono i NASA, North America, South America, un collettivo di DJ californiani che fece nel 2009 un album zeppo di collaborazione di Spirit of a Paul, e questo è Gifted. And while y'all on 10, I'm on 11. I'ma make the news be on it sitting. Matter of fact, I'm on this very second. I'm in first and y'all in second. And this verse only add to the freshness. Call of the club, tell them add to the guest list. What you think? Way more bitches. I can never be too big for my britches. Y'all motherfuckers know who this is. I'm gifted. Merry Christmas. Merry Christmas. Cioè, per la sua voce è inconfondibile. Questa puntata me la canto e me la ballo sulla sedia in continuazione, all'inizio e alla fine. Cioè, la voce di Santi Gold è inconfondibile, anche lei con MIA è un po' la kick-ass bad girl. E la sua voce, il suo modo di cantare proprio emanano swagger, cosiddetta, insomma, spavalderia, spacconaggine. E ci abbiamo voluto attaccare Whatcha Doing, sempre un pezzo di Spirit of Apollo, dove canta anche Santi Gold insieme a Spank Rock. Per un collettivo in NASA che crede appunto nella commissione dei generi, appunto Lick Lee, Santi Gold and everything in between, questo progetto collaborativo di Spirit of Apollo del 2009 è molto molto bello. Ma andiamo avanti per parlare di 99 Cents, come dicevamo, un commento sulla società così in cui viviamo, in cui noi stessi qualsiasi cosa è qualcosa che si può comprare e si può vendere. Il primo singolo e video che ha anticipato l'uscita del disco a novembre è stato l'unico vero e proprio featuring duetto ufficiale con I Love McConnell, perché ovviamente Santi Gold, essendo parte dell'industria musicale, ha nasato che, insomma, I Love McConnell l'abbiamo sentito diverse volte a Mighty FM, rapper emergente della scena di Atlanta. Hanno fatto questo duetto che secondo me non è uno dei pezzi più riusciti dell'album. Il video è stato girato da Santi insieme a Trouble Andrew, ovvero Trevor Andrew, che lo diciamo, sì, è un musicista, è un cantante, è uno snowboarder, è suo marito, è il padre di suo figlio. E questo è Ubi Loving Me, che appunto in questo progetto di associare una canzone ad un prodotto, nel Tumblr potete vedere che a questa canzone ha associato una app per controllare chi è che ti ama online. Ovviamente la parte di Love McConnell, il suo marchio di fabbrica è questo, appunto, questa stanchezza, questa sonnolenza, e lei ha dichiarato di essere stata molto intimidita dal fatto che lui abbia subito fatto in one take, come si dice, la sua parte, subito scritto così sui piedi. Lei invece si è presa un po' di tempo perché aveva paura di non essere all'altezza, ma quando arriva la sua parte alza di molto, secondo me, il livello del pezzo. Anche perché lei ha ceduto molto il terreno, perché ha fatto un pezzo di dove lei sembra l'ospite di un pezzo di McConnell e non il contrario. Insomma, dimmi cos'è che succede, cos'è che mi offri, cos'è che mi proponi, perché in tutto il mondo io ho bizzeffe di ragazzi / ragazze che sono disposta ad amarmi, e finisce così, sfuma questo duetto tra Santi Gold e I Love McConnell, ovvero McConnell from Atlanta, e uno dei pezzi fondamentali, almeno per me e anche per Olivia, credo, posso dire, vediamo se adesso me lo conferma in chat, era Lights Out dell'album di debutto di Santo Gold, uno dei pezzi più indie, quando l'indie era indie, e l'ho visto anche in una recensione, e c'è questa versione alternativa che ha fatto una versione alla Cure, fatta per una pubblicità della Bud Light Lime. Watch everybody come on down. Lights out, make it easy. Won't make it fun. Won't let them see now how they won. Still out late on the round door. Don't have to worry about the dark. Don't have to worry about the light. Esistono tante versioni dei dischi del primo album, ci sono tantissimi remix, e uno di questi è Lights Out, che io ai tempi, quando ancora non mettevo tanta roba Tunes, però questo nei miei DJ set da quegli anni lo mettevo sempre, è il Kid Gloves remix, ovviamente solo qualche minuto, ma insomma per far sentire cos'è che ci muoveva, pezzo originale ma anche una versione così. Run. Dicevo, la versione di prima di Lights Out, andate a vedere tutti i video, dove lei è sempre accompagnata fin dal primo video di Creator dalle sue ballerine, che ho cercato i suoi nomi anche dal vivo, sono una presenza fondamentale, ho cercato i nomi perché meritano riconoscimento, ma loro molto sportivamente si fanno chiamare SG1, ovvero Santi Gold. Santi Gold One, ovvero Santi Gold Dancers, ma ho trovato almeno i loro nomi, Monica, Giuseppe e Desirita della Rosa, sono troppo, troppo fighe. E dicevo, Lights Out esistono tantissime versioni, quella che abbiamo sentito prima, cambiando il suono delle tastiere della chitarra, ha trasformato un pezzo simil Cars o simil Smith in un pezzo simil Cure. Perché appunto c'è questa apparente contraddizione del fatto che i suoi pezzi sono stati sempre usati per le pubblicità, tra le assicurazioni, le macchine, la birra, e lei comunque ha dichiarato che non è una contraddizione, anche perché comunque da quando si sono smessi di vendere i dischi, adesso c'è il servizio di streaming che lei un po' lo disprezza perché pensa che gli artisti debbano guadagnarci di più, perché ci guadagnano veramente veramente poco, ma ne parleremo. Finiremo il discorso dopo, perché adesso siamo arrivati al 99 cents mix, ovvero tre pezzi che non ascolteremo completamente, che sono Walking in a Circle, Outside the War e Run the Races. They call me queen. This built to last won't mean nothing. Nobody's counting around here no more. Pezzo che suona molto sexy. Dicevamo nella presentazione, questo 99 cents come la copertina, dove lei è sottovuoto, letteralmente sottovuoto, circondata da oggetti, cianfusaglie, può non essere completamente riuscito. È stata anche molto criticata l'ordine, il fatto che dopo ci sono i primi pezzi molto esplosivi, anche il primo pezzo d'apertura, e poi Bunch, e poi Walking in a Circle, appunto il primo che abbiamo sentito in questo mix, e poi c'era Outside the War e quest'ultimo pezzo Run the Races. Outside the War, Run the Races sono stati scritti quando lei era incinta di 9 mesi, sono i pezzi un po' più riflessivi, introspettivi, dove lei dice: so che sto andando in un posto pericoloso per me, ma ci andrò comunque parlava appunto del fatto di diventare madre nel 2014, credo, ha fatto un bambino insieme a Trevor e si chiama Radek. Ha un po' l'andamento di una Ninna Nanna, dove lei dice che insomma, bisogna mettersi in corsa, correre una gara, che insomma non ci si può più tirare indietro. Quando infatti anch'io spesso ci pensavo, al momento in cui sei incinta, poi non è che puoi insomma, decidere alla fine di tornare indietro, e poi insomma devi affrontare questa nuova avventura. E finisce questa tripletta dei pezzi un po' più calmi di questo disco 99 Cents, che c'è stato anche qualcun altro che aveva chiamato un disco 99 Cents nel lontano 2003, e che potremmo comunque associare a Santi Gold, perché comunque era un terzetto di ragazzacce, una australiana, una americana e una tedesca, erano le Chicks on Speed, e questo è il pezzo omonimo. Quanto riguarda i crediti produttivi della tripletta precedente, Walking in a Circle vede la partecipazione ripetuta anche nel disco precedente di Nick Zinner, chitarrista di Yeah Yeah Yes, e anche c'era una canzone che cantava anche Karen O, non mi ricordo però se era su questo, ah no, era sul primo pezzo del secondo album Go, che ascolteremo più tardi. Poi Outside the World vede tantissimi autori, tra cui ancora Bob Mangley e Martin McKinney, anche questo un vecchio collaboratore di fiducia. E poi invece Run the Races era la seconda collaborazione con Dave Sitek, anzi no, insomma dovevamo citarlo, perché quando abbiamo visto che aveva fatto un disco che si chiama 99 Cents non potevamo ricordare le Chicks on Speed, che sono arrivate un po' prima. Noi abbiamo anche la maglietta con la patacona 99 Cents, che invece di essere nero su giallo come la patacca di Santi è giallo sul rosso. Ma un altro pezzo che richiama la new wave americana, direi, più che inglese, è questo, anzi è stato anche paragonato, grazie anche a un produttore scandinavo, a Ayaha, norvegesi, Take On Me, ce lo ricordiamo benissimo, e questo è Rendezvous Girl. Sul tema del voler essere popolari e l'anima della festa a tutti i costi. Qui parla, lei si mette nelle vesti di una rendezvous girl che ha un calendario pienissimo, ha più appuntamenti della regina. Il discorso sullo streaming, lei dice che sì, magari le etichette, che anche loro insomma hanno smesso di vendere dischi, sono trovate nei guai, possono aver stretto degli accordi vantaggiosi con i servizi di streaming, che però escludono, tagliano fuori proprio l'artista. Dice: io ho resistito molto perché non mi piace questa idea, anche perché, come abbiamo scritto, magari le canzoni vengono usate, consumate molto usa e getta, quando da un album magari ci sono un paio di pezzi che puoi mettere in una playlist. Quando lei dice: io ho cominciato ad ascoltare musica e comprare musica perché si considerava l'album come una cosa intera, si partiva dalla copertina e tutti i pezzi, e ogni disco insomma era una cosa unica. Quindi se anche io ho messo in discussione l'ordine dei pezzi, lei sicuramente avrà avuto un motivo per metterli come l'ha messi. Questa miriade di collaborazioni subito dopo il debutto omonimo nel 2008, a parte appunto nel 2009 ha dovuto cambiare nome per paura di una possibile causa legale da parte di un regista. Ma nel 2012 esce un disco più introspettivo, più cupo forse, anche questa qui è una critica abbastanza dura sul la difficoltà della vita come artisti. In questo primo pezzo, Go, c'è Careno, seguito poi dal pezzo anche più famoso che ho letto, che tutti conoscono anche se non sanno di conoscere, ovvero Disparate Youth, e poi The Keepers. Anche di questo pezzo aperto il concerto che noi vedemmo a Lisbona 4 anni fa, abbiamo postato sul nostro Facebook, è veramente trascinante. Go! Questa ancora più XTC, Making Plans for Nigel. Questo pezzo passa appunto in 4 battute dalla new wave a un suono reggae, per un album che al suo esordio raggiunse direttamente il numero 1 nella classifica Billboard Dance Electronic. Jump for snakes right past and turns around and it's all Questo Down Down Down mi dà la stessa sensazione di Buona Domenica di Venditti, e non è una cosa brutta. Questa è insomma una tripletta di un album comunque bello, è stato sottovalutato anche dalla critica, dicendo che era insomma un disco cupo, invece lei secondo me è stata sempre molto molto coerente, facendo quello che sa fare, sapendo mischiare di tutto. È appunto una delle influenze dalla parte alternativa che abbiamo citato e sono citate nelle varie recensioni è quella dell'Elastica. Ci siamo riascoltate tutto il disco omonimo del 95, vabbè, una meraviglia, non sapevamo cosa scegliere, alla fine abbiamo scelto questa Hold Me Now. Però c'è anche chi ha criticato 99 Cents e Santi Gold, alla fine Metacritic ci dice che ha avuto un 71, insomma un po' un buono alle medie, con tantissimi 6 ma anche diversi 8. E comunque si dice che la premessa poi non mantiene la promessa, nel senso che dopo all'interno non viene poi esplorata così tanto, soprattutto nei testi, perché dove dovrebbe essere esplorata questa contraddizione? Non in tutti i pezzi, ma in alcuni sì, l'abbiamo detto. Questa contraddizione della società, dell'immagine, della nostra personalità mediata, che tutto è brand, brand di noi stessi, eccetera, eccetera, e che quindi, insomma, le aspettative non sono state rispettate. Ma come dice lei, e adesso traduco le sue parole, fondamentalmente il disco è come la pop art, cioè sottolinea dell'assurdità dell'epoca in cui si vive, trasformando ogni cosa assurda in arte, ma non cerca neanche di nasconderlo, ma anzi porta la cosa all'estremo. Un altro pezzo invece, questo sì, fatto con Sitek come Fame nell'album precedente, che non abbiamo neanche detto il titolo, quello del 2012 era Master of My Make Believe, cioè sono la padrona e anche so gestire, sono la maestra della mia finzione, era Master of My Make Believe, quindi anche il titolo abbastanza cupo. Già in quel disco c'era una collaborazione con Dave Sitek, il pezzo si chiamava Fame, il ritornello sembravano i Knife, questa invece è Before the Fire e si sente il marchio TV on the Radio. comunque la critica di Santi Gold al consumismo sfrenato non riguarda solo la musica, è appunto riguarda al fatto che qualsiasi cosa può essere un prodotto, la commodification of everything in questa cultura dove tutto buy buy buy, sell sell sell, cioè compra compra, vendi vendi vendi, ognuno si propone, si fa il marketing di se stesso perché i social media ti presentano, ti permettono di dare questa versione ritoccata, sempre migliorata della tua vita e di te stesso, e questo è il nuovo modello, ma io cerco di essere coerente e di rimanere insomma integra nella mia arte. Ma negli anni che sono passati dal 2012 a questo 2016, ovviamente lei non è stata con le mani in mano, ogni tanto ci sono delle partecipazioni a colonne sonore come questa Girls, con un video molto carino e sembra anche molto Santi Gold slash Mia, questo pezzo qui si chiama Girls, tratto da la colonna sonora del telefilm omonimo Girls Volume 1, musica tratta dallo show della HBO Lena Dunham 2013. Questa è un'altra partecipazione ad una colonna sonora che conteneva tantissimi nomi della scena, questa commistione tra alternativo, indie e mainstream che ormai non esiste più, infatti ho letto anche Santi Gold è venuto fuori in un momento in cui questa differenza c'era ancora, e poi lei stessa è stata una di quegli artisti che ha contribuito a cancellarla, quindi forse per questo il suo disco non è più una grande novità, ma lei continua a fare la sua cosa, è stata una delle prime e non c'è quasi nessuno come lei, mentre diciamo il resto del mondo si è messo più alla pari, e questa infatti era una colonna sonora che rispecchiava questa cosa, da degli acts eminentemente mainstream e pop c'erano anche dei nomi ben alternativi come gli Arcade Fire, e si tratta infatti della colonna sonora di The Hunger Games Catching Fire del 2013, a cui Santi Gold contribuì con questo pezzo che si chiama abbastanza banalmente Shooting Arrows at the Sky. Nostro intento assolutamente filologico, abbiamo voluto mettere anche tutti i pezzi originali che lei ha fatto tra un disco e un altro, ma l'abbiamo più volte citato e adesso facciamo sentire un pezzo di questo Trevor Andrew, in arte Trouble Andrew. Questo pezzo si chiama Ghost, è tratto da The Unpopular Pop Artist del 2015, classe 79, canadese, nasce come snowboarder, ha partecipato alle Olimpiadi del 98 e del 2002, nel 2004 si è sfasciato il ginocchio, come lo capiamo, e poi si è dato alla musica, ha fatto diversi EP e album e tra le altre cose compagno, marito e padre del figlio di Santi Gold, questa è Ghost. continuando il discorso sull'integrità artistica di Santa Gold, appunto parlava del fatto di come adesso magari si salvano uno o due pezzi, viene solo considerato insomma il singolo, quello che può essere messo in una playlist, mentre appunto lei è cresciuta con questa idea dell'album come una cosa unica, e dice: non comincerò a fare album che non funzionano come album, mi piace che sia considerato un unico corpus, un'unica opera. E però per fare questo devi essere un po' più creativo e prendere rischi, perché infatti il problema che diceva dello streaming è che sì, la gente vuole avere tutto a disposizione, e anche musica, vera musica e musica di valore così a disposizione, però ci sono appunto dei tipi di artisti che sfornano il singolo uno dietro un altro, anzi le cosiddette music factory glieli producono, poi decidono chi farla cantare, propongono dei pezzi proprio fabbricati secondo una formula e poi lo producono, presentano alle etichette e poi decidono a chi farla cantare, mentre il mio lavoro ha un tempo di lavorazione un po' più lungo e insomma nel frattempo bisogna anche un po' mantenersi in qualche modo. Quindi si ritorna al discorso dell'uso delle canzoni nelle pubblicità, è anche un'opzione quando comunque non guadagni più né dallo streaming service né dalla vendita dei dischi, ma magari appunto da queste cose o da facendo dei tour. E siamo tornati a 99 Cents, un altro pezzo è All I Got. L'approccio che ha voluto Santa Gold per questo disco, sì, di critica, però anche di cosa molto divertita, cioè di mettersi appunto se stessi a livello di un prodotto, un po' una critica, è anche un po' un modo molto molto giocoso. Dicevamo della copertina dove lei è stata letteralmente messa sotto vuoto da questo artista giapponese che ha specializzato, ha fatto diverse mostre con persone, coppie messe sotto vuoto, infatti è definito vacuum pack artist, Haruhiko Kawaguchi. Quindi l'approccio di Santa Gold, che fosse insomma assolutamente giocoso e divertito. Questo pezzo All I Got è un'altra collaborazione con Patrick Berger, creatore oltre che del successo Dancing on My Own, anche di un altro pezzettino così come I Love It dell'icona pop. E un'altra canzone che sembra veramente, questo è un pezzo di Charlie XCX che ha anche cantato in Banshee, è il suo contributo alla colonna sonora nel 2015 di Paper Towns, il film che vede protagonista Cara Delevingne, e si chiama Radio. Quindi proprio l'ultimo pezzo pubblicato prima del nuovo album. E spero che sia voluto il fatto che si chiama Radio, contiene i suoni, un mix, un collage di tutti i pezzi radiofonici più famosi degli ultimi tempi, dei suoni di Charlie XCX a Breaking Ball. Ora. We'll be right back. e siamo arrivati quasi alla fine. Avremmo voluto dire mille altre cose di più, leggere anche un po' altre cose interessanti nelle varie recensioni, è sempre così. Comunque lei è stata sempre definita, la sua musica, un melting pot del pop. Lo stile è stato definito pure pop for now people, musica per giovani, però non considerandoli dei cretini, ma persone che possono discernere, avere dei gusti e sentire insomma il vibe della propria epoca. Poi Mixmag, che gli ha dato 8, dice troppo pop per la nicchia, il culto, e too cult for pop. La stessa cosa dice Clash Music, troppo pop per, diciamo, gli artistoid, insomma la gente un po' più raffinata, ma troppo strana per il mainstream. Questa radio però, appunto, lo dichiara nel titolo, che è assolutamente orecchiabile e è mainstream. Comunque lei è bravissima a creare i cosiddetti pop hook, catchy, infectious, insomma come potete definirli, così contagiosi. Infatti io questo disco me lo sto cantando da giorni e siamo arrivati alla fine. È una chiusura assolutamente rockettara, una delusione, diciamo un rimprovero, una persona che si credeva di conoscere ma che evidentemente la fama ha trasformato o ha fatto rivelare i suoi veri colori, come si dice. Si chiama Who I Told You Where ed è il pezzo di chiusura di 99 Cent. Guardati qua con un vestito da $1 milione, con un macchinone. Io ti conoscevo quando tu ancora non avevi idea di quello che sarebbe successo, ma non puoi essere chi pensavo che tu fossi. Mi piace di più quando sei più povero, la tua nuova carta d'identità è una noia. Ma chi ha un po' d'orecchio e ha una certa età, anche se è un pezzo che può conoscere anche chi ha 15 anni, a cosa assomiglia leggermente questo pezzo? Non abbiamo resistito alla tentazione, lo facciamo sempre. Born in the USA, album omonimo dell'84, The Doors. Siamo ritornati a Who I Told You Where. Questo album 99 Cent, come ho scritto, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ce ne fossero i dischi così, e ti prego, Salty Gold rimani una certezza. Ogni 4 anni, l'anno delle Olimpiadi, delle elezioni, del business deal, noi ti aspettiamo. Non sappiamo se verrai a suonare da queste parti. Tra l'altro, poi non ho detto che nel 2013, dopo il tour di Master of My Make Believe, che vedeva anche la collaborazione con i Buraka Sound System, bla bla bla bla, si è data anche la recitazione. Ha recitato in un episodio di The Office, la serie che poi è finita con quella stagione lì, facendo se stessa un giudice cattivissimo di una specie di American Idol, insieme a un giocatore di football e al secondo classificato della seconda edizione di American Idol, adesso non mi ricordo il nome, in cui fanno i giudici cattivissimi di questa di questo nuovo programma, questo talent show che si chiama The Next Great A Cappella Sensation. e poi ha partecipato anche in un episodio di una serie sempre comica che si chiama NTSF SDSFU, cioè una presa in giro dei vari NCIS CSI, che sarebbe National Terrorism Strike Force San Diego Sport Utility Vehicle, perché pensa di essere molto molto portata per la commedia, perché si definisce goffa e anche non gli importa di farla parte di quella che poi viene presa in giro dal personaggio più divertente di una scena, quindi forse tornerà anche a recitare. E niente, finisce questo pezzo, finisce questa trasmissione di Mighty FM, andatelo ad ascoltare, 99 Cent, Santi Gold, Forever. Mighty Mouse.